Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. E partiamo subito allegri, 17:08 minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. Chi ascolta i nostri GR già lo sa, una seduta tutto sommato tranquilla, in cui si era arrivato, per carità, a Milano era arrivata a perdere anche il 2%, ma poi aveva recuperato meno 0,9%, ma più che la borsa, a mio avviso, sono preoccupanti oggi di nuovo gli spread, ossia la differenza tra quanto rende una nostra obbligazione, quindi quanto costa a noi finanziare il nostro debito e quanto costa la Germania. È tornato al livello di 370 punti e quindi un livello da pieno caos della finanziaria, il livello della settimana scorsa, perché questa volta non per una colpa italiana. Certo, anche oggi ci siamo fatti bacchettare le mani dalla Svezia, perché il ministro delle finanze svedese Anders Borg ha detto che, insomma, Roma e Atene sono state farsesche, la situazione in Grecia e in Italia è molto preoccupante, ha ampie implicazioni per l'economia europea. Abbiamo visto comportamenti dei politici greci e italiani quasi farseschi, che hanno avuto conseguenze tragiche per la credibilità delle politiche economiche. Vabbè, ci ha bacchettato il ministro delle finanze svedese, ma il punto è un altro, che intorno alle 15 si è dimesso uno dei membri della Banca Centrale Europea, il membro tedesco, perché ufficialmente solo per motivi personali. In realtà è successo, o si presume che sia successo, ben altro. L'annuncio è arrivato alle 15:46, Jörg Asmussen sostituirà Jürgen Stark. Asmussen è il vice ministro alle finanze tedesco, ma Stark, da quello che si è capito, si è dimesso perché era contrario alla linea della Banca Centrale Europea di riacquisto di debito italiano e spagnolo e anche greco, ma quello è già avvenuto. Due minuti dopo, praticamente lo spread, quindi la differenza con la Germania, è volata a 370 punti, le borse hanno preso a calare. Già questa mattina il rischio Grecia aveva toccato un nuovo record a 3.000 punti, e sui CDS chiaramente, anche l'Italia, anche quelli italiani, i credit default swap sono i premi che si pagano per assicurarsi contro il rischio paese. Più alto il premio che paghi, più a rischio è il paese chiaramente verso cui tu ti assicuri. Anche quelli italiani sono saliti a 439 punti, ancora 40 punti di differenza con la Spagna, che resta sotto, resta 392 tedeschi. Sì, lo so, molti stanno già scrivendo, criticando la posizione della Germania, altri stanno dicendo ce lo siamo meritati perché l'Italia ha dato una pessima immagine in queste settimane. Vedremo di mettere i puntini sulle i. Obiettivamente l'immagine che abbiamo fornito non è stata edificante. Da lì però ad avere una Germania che è fermamente contraria all'acquisto di debito di alcuni paesi più a rischio in Europa, senza spiegare l'alternativa qual è, cioè facciamo fallire l'Italia, la Spagna, la Grecia, chiudiamo l'euro, ne usciamo, siamo così sicuri che la Germania ne resterebbe illesa, ecco, mi sembra una posizione tedesca nel senso più, diciamo, critico del termine, come loro dicono gli italiani, per dire cosa delle volte fate un po' la pasticciona, diciamo tedeschi, per dire un eccesso di rigidità del membro tedesco. Le headlines. Siamo a rischio. Allora, meno 3,66% Milano, il Banco Popolare perde il 6,91%, Fiat su auto, su camion e trattori, quindi Industrial meno 6,66%, Unicredit precipita di nuovo sotto gli 80 centesimi di euro per azione, meno 6,60, 78 centesimi, Mediolanum meno 6,20, Fiat meno 5,50, Intesa meno 5,20, Exor meno 4,90, Monte dei Paschi meno 4,60, come UbiBanca. Il 4,5 lo perde Fondiari Assai e Impregilo, il 4,20 Enel e anche Generali. Buzzi Unicem meno 3,90%. Adesso la borsa peggiora ulteriormente, meno 3,70. Devo dire che anche Francoforte perde il 3,11, Parigi il 3%, noi comunque di più. Londra resta fuori da queste polemiche, da questi battibecchi e anche da questo beccarsi sull'euro, e infatti perde solo l'1,60%, l'America meno 1,5%. In realtà la puntata oggi sarebbe dovuta essere un po' diversa, cercheremo di mantenere la versione originaria. Ossia volevamo occuparci di quello che ha detto ieri in nottata Barack Obama, che ha lanciato un grande piano sull'occupazione, un piano che va oltre i 300 miliardi di dollari inizialmente stimati, addirittura 450 miliardi di dollari, American Jobs Act, questo è il nome del piano. E volevamo unire, diciamo, quello che ha detto Barack Obama ieri con la ricorrenza tragica, ci mancherebbe, dell'11 settembre, è domenica, quindi noi non saremo in onda, e oggi avevamo preparato anche un po' di analisi su cosa è successo in questi 10 anni in America, però insomma appunto non si può mai stare tranquilli, ce n'è sempre uno ogni giorno. Oggi appunto ci ha cambiato il palinsesto il membro tedesco Stark della Banca Centrale Europea. Ancora notizie, altre notizie in breve. Sì, ho detto headlines, lo sapete che io sono contrario a tutti gli inglesismi, ogni tanto scivolo anch'io. Le notizie in breve in apertura, queste sono le nostre headlines. L'oro è in calo sui mercati asiatici a 1853 dollari l'oncia, il petrolio è a 89,50, e adesso vi faccio arrabbiare. Insomma, il petrolio è stabilmente da settimane sotto i 100 dollari e anche spesso sotto i 90 dollari al barile. Però oggi di nuovo la benzina va a salire, 1,625 euro al litro, il diesel è tornato sopra 1,50 euro. Ripeto, noi non capiamo, non so se le pompe di benzina stiano già incamerando l'aumento dell'IVA, però partirà da quando c'è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della finanziaria, quindi sarebbe un'anticipazione un po' così sospetta. Però faccio solo notare che a 1,625 euro la benzina oggi, il prezzo del petrolio è 89 dollari al barile, ossia tradotto in euro è a 64,50 euro con un cambio a 1,38. Nel 2008 il prezzo del petrolio era 148 dollari, ci costava al cambio di allora 93 euro, quindi ci costava 93 euro nel 2008 ad agosto, adesso ci costa 64 euro il petrolio, eppure miracolo dei miracoli la benzina costava ad agosto 2008 1,560 euro, adesso costa 1,625 euro. I misteri di Fatima del mondo dei petrolieri. E allora sentite il commento invece di Martino Landi, presidente della Federazione Autonoma Italiana Benzinai, che dice: attenzione, noi vedremo compressi i consumi dall'aumento dell'IVA. In realtà sappiamo che i consumi di benzina non sempre sono comprimibili. Comunque sentiamo al microfono della nostra Anna Marino. Noi chiaramente abbiamo espresso un giudizio negativo rispetto alla manovra che ha consentito un aumento dell'1% dell'IVA dal 20 al 21%, coinvolge anche il settore dell'energia e quindi i carburanti. Considerando un prezzo medio oggi intorno a 1,05 euro, 1,06 euro, che è il prezzo medio sia del gasolio che della benzina, al momento che scatta l'aumento dell'1%, immediatamente il prezzo si adegua e si attesta a un costo aggiuntivo di 13 millesimi al litro. In totale quanto sarebbe l'aggravio? Sono 13 millesimi al litro, se lei considera che in un anno mediamente l'incasso sui carburanti si attesta intorno ai 40 miliardi, probabilmente l'aumento medio che devono sborsare i consumatori si attesta intorno ai 400 milioni di euro. Questo è un aumento che viene percepito dai consumatori che tutti i giorni consumano benzina, e chiaramente questo è un fattore negativo perché comprime ulteriormente le vendite e quindi i consumi, questo è chiaro. E quindi i 400 milioni di euro sono soldi che rispetto a questo provvedimento tutti gli italiani devono tirar fuori nell'arco dell'anno. Adesso arriviamo alla Germania, al fatto che il membro tedesco della Banca Centrale Europea si sia dimesso, creando panico dappertutto. Vedo che adesso Francoforte meno 3,61%, mentre Milano perde più del 4%, adesso il 4,1%. Complimenti a Stark, che non è fratello di Philipp, ma è appunto il rappresentante tedesco della Banca Centrale Europea. Alcuni dicono, insomma, provi lei a mettersi nei panni dell'operaio tedesco che va in pensione verso i 67 anni, lavora, è produttivo, ha un paese che ha messo in ordine i conti, che ha risanato, che ha una classe politica che costa molto meno della nostra, e questo è verissimo. E perché l'operaio tedesco dovrebbe pagare per quello greco che ha 53 anni, va già in pensione pieno di benefici, o per l'Italia in cui abbiamo dibattuto per settimane, scrivono gli ascoltatori, tra le festività laiche o il recupero degli anni di università, cioè dando uno spettacolo che molti hanno definito un teatrino. Sono d'accordo, e nessuno vuole dire che Grecia dal punto di vista dei fondamentali e Italia dal punto di vista dei comportamenti siano da elogiare né da applaudire, non mi sembra che ci siano arrivati molti elogi. Da lì però a creare una frattura dentro la Banca Centrale Europea sul tema del cosa deve fare la Banca Centrale Europea se continuare ad acquistare debito italiano e spagnolo, mi sembra eccessivo. Mi sembra che la Germania non abbia idee chiare. Un giorno è a favore del salvataggio dei paesi europei, il giorno dopo è contrario. In questo modo ci abbiamo messo un anno per risolvere la crisi greca. Abbiate pazienza. Due notizie ancora. Il Giappone ha rivisto leggermente a ribasso la sua economia nel secondo trimestre, mentre in Italia, oltre all'appello del Presidente della Repubblica Napolitano, che ha detto che certi comportamenti diffusi sono un ostacolo a una sana gestione dei mezzi finanziari disponibili, certi comportamenti ostacolano la ripresa, nessuno può sottrarsi all'esigenza delle riforme, dicevo, in Italia è arrivato al dato sul secondo trimestre, più 0,3%, più 0,8% su base annua. A questo punto la crescita acquisita per il 2011 è dello 0,7%, cioè se non crescessimo, come c'è il rischio nel terzo trimestre, crescessimo poco per quello che riguarda il quarto trimestre, avremo comunque una crescita dello 0,7%. Dopo aver parlato della Germania, della BCE e dei mercati, avremo una notizia positiva a mio avviso. Ci saranno effettuate, questo emerge dalla ricerca Union Camere e Ministero del Lavoro, 595.000 assunzioni dalle imprese italiane a fine del 2011. Questo è il numero di assunzioni effettuate dalle imprese italiane. La notizia è particolarmente buona perché è un più 8% rispetto al 2010, anno difficile per carità. Ma la cosa interessante, ne parleremo, è il profilo di chi viene cercato. E i laureati in economia sono sempre al top nelle richieste, da quando anche è iniziata la crisi economica. E poi molto bene le domande per gli ingegneri e ancora bene anche i medici e comunque persone che hanno già avuto una loro esperienza. Agli ultimi posti ci sono invece psicologia, e poi letteratura, storia, filosofia e la parte artistica, con appena 1000 richieste da parte delle imprese. Ok, fine con le notizie in breve, partiamo con il primo tema che chiaramente potremmo battezzare così, ce n'è sempre una, non è mai finita, non si riesce a stare tranquilli un giorno, dopo appena due sedute più rassicuranti sullo spread, su tutto, sui mercati, è arrivato il membro tedesco, perde il 4,30% del mercato in questo momento, è arrivato il membro tedesco a gelare i mercati. Eh sì, because I'm falling down, sta calando tutto, adesso proprio un'accelerata, giusto per non farsi mancare nulla negli ultimi minuti di venerdì, meno 4,50% Milano, meno 4 Francoforte, meno 3,50 Parigi meno 1,60, Londra, che resta a guardare queste baruffe non chiozzotte ma tedesche, italiane, spagnole. Alessandro Merli, buonasera. Buonasera a voi. Ascolta, è due giorni che sei a Francoforte, non è che porterai sfiga tu, perché questo non possiamo, non sappiamo più dove appellarci. Insomma, tu stai pronto a rientrare da Francoforte tranquillamente, meno 5% Milano, e vai a rientrare tranquillamente. E che cosa è successo oggi in un consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, in cui certo c'era il tema del continuare a comprare il debito spagnolo e il debito italiano, ma insomma ieri lo stesso Trichet, lo ricordavi tu, aveva espresso un giudizio più che positivo sulla manovra finanziaria, sembrava un po', no, di poter respirare per il weekend, no? Sì, ieri però c'era stato anche un fatto piuttosto singolare per chi conosce un po' Trichet, che è un uomo estremamente controllato, che non si lascia mai prendere dai nervi. Quando gli è stata fatta una domanda sulla posizione tedesca, se la Germania non starebbe meglio tornando al marco, Trichet è letteralmente esploso, sbottato, ha detto: ma noi facciamo il nostro mestiere meglio di quanto non lo facesse la Bundesbank, abbiamo tenuto sotto controllo l'inflazione. La cosa è stata così clamorosa che in effetti ha lasciato perplessi, ma forse si spiega con queste dimissioni di Stark di oggi. Evidentemente stiamo cercando di costruire quello che è successo ieri in Consiglio, le divergenze sono state molto, molto violente, oppure Stark stesso ha reagito a questo sfogo di Trichet, nel senso che Stark poi a sua volta è stato per 8 anni vicepresidente della Bundesbank prima di arrivare alla BCE. Comunque chiaramente non è una questione né di ieri né di oggi. Ricordiamo che ad aprile si è dimesso Axel Weber da presidente della Bundesbank esattamente sulla stessa questione, cioè l'acquisto dei titoli italiani e tedeschi. Questo per i tedeschi significa monetizzare il debito italiano e tedesco. Questa è una cosa che evidentemente in Germania non va giù. Se persino il presidente della Repubblica, che non ha nessun potere esecutivo, si è permesso di dire che questi acquisti probabilmente sono illegali, evidentemente è una cosa che sta sullo stomaco a molti. Se prima si è dimesso Weber, adesso si dimette Stark, allora a questo punto c'è da chiedersi quale possa essere il ruolo futuro della Germania nell'Unione Monetaria Europea. O dell'Unione Monetaria Europea nella Germania, perché alcuni dissero ecco, anche così. Il futuro dell'Unione Monetaria Europea. Sì, allora alcuni dicono, ma insomma lei sta difendendo chi ha torto, cioè noi, gli spagnoli, la Grecia, e sta accusando chi ha ragione, che la Germania. Ma figuratevi, ho solo detto che possono avere mille ragioni i tedeschi per essere scettici, e gliele abbiamo fornite in queste settimane, Dio sa quante gliene abbiamo fornite, però una rottura così forte con le ripercussioni che sta avendo anche sulla borsa tedesca, meno 4,20%, adesso Francoforte, meno 4,70% Milano, ma dico, forse si poteva cercare un modo più morbido. Tra l'altro molti ascoltatori, Alessandro, fanno notare che queste dimissioni sono arrivate ai mercati aperti, anche lì, no? Forse ogni tanto ci si poteva anche, non sarebbe cambiato molto, però farle ai mercati chiusi con di mezzo il weekend sarebbe stato meglio. Diciamo che ormai erano trapelate a quel punto. La BCE credo che abbia fatto un comunicato per il semplice motivo che una volta che è uscita la Reuters dicendo che erano attese a mercati chiusi, dando tutta una serie di particolari, era evidente che ormai a quel punto la cosa era scoperta, per cui diventava irrilevante che la BCE ufficialmente comunicasse la cosa alle 5:30 invece che alle 3:30. Ecco, su questo c'è chi dice, però insomma la Germania ha un atteggiamento, adesso io non vorrei fare una puntata tutta giocata sui doppi sensi, perché non è lo spirito di questo programma, ma c'è chi ha, la Germania ha un atteggiamento che ricorda quello del marito cornuto che si taglia la cosa che ha più cara, e cioè, traduco: se va a fondo l'Italia e anche la Spagna, se salta l'euro, siamo così convinti che, adesso ipotizziamo la cosa più assurda, si torna alle valute nazionali, beh, noi andiamo a svalutare, la Germania non esporta più niente qua e noi gli invadiamo i mercati di prodotti con le vecchie lire. Cioè siamo così convinti che la Germania ne potrebbe avere solo benefici? siamo così convinti, visto che avevano 40 miliardi di euro di obbligazioni greche, loro le avevano, noi ne avevamo solo 5, hanno molte obbligazioni italiane, hanno anche obbligazioni spagnole, cioè non ti sembra che sia un ragionamento un po' masochista quello tedesco, no? Ma io credo che la rottura dell'euro avrebbe delle implicazioni cataclismiche nelle quali inevitabilmente viene coinvolta la Germania, ma molto prima che si ponga il problema delle esportazioni tedesche si pone il problema delle banche tedesche, che non solo hanno un'enorme presenza in Italia e in Spagna oltre che negli altri paesi della periferia, ma poi evidentemente con lo stress a cui sarebbero sottoposte tutte le banche d'Europa, praticamente anche quelle di tedesche, inevitabilmente si troverebbero coinvolte in un terremoto. Quindi parliamo di un problema di proporzioni gravissime per tutto il sistema finanziario europeo, ancora prima di arrivare al problema dell'economia reale, che poi inevitabilmente si porrebbe anche quello. Insomma, quindi non c'è dubbio che la Germania, che ha tratto anche degli indubbi benefici dall'euro e dell'aver prestato anche i soldi alla Grecia, cioè, nessuno ha obbligato le banche tedesche a comprarsi 40 miliardi quasi di debito greco, cioè, nel senso, finché andava bene lì c'erano altri tassi di interesse. No, scusami, le banche tedesche sono fra le più esposte insieme a quelle francesi, alla Grecia e a tutta la periferia d'Europa, quindi c'è anche questo elemento. Però diciamo, un conto è l'esposizione ai confronti della Grecia, un conto è una rottura dell'euro in cui a questo punto si salvi chi può. Ringrazio perché ci ha raggiunto anche in collegamento dagli Stati Uniti il professor Michele Boldrin, che insegna economia all'Università di Washington. Buonasera professore, mi sente? Buonasera. Ecco, con lei volevo parlare di Obama e dell'America 10 anni dopo l'11 settembre, però mi dia un commento, poi un'altra domanda per Alessandro Melli. Com'è vedere queste dinamiche, questi scontri di là dall'oceano? Sembra un'Europa di baruffe, di polli, di Renzo, no? No, di baruffe o di polli no, sono questioni serie. Io stavo ascoltando la vostra conversazione, sono in linea da 3-4 minuti, non ho sentito il nome dell'altro signore con cui lei sta discutendo. Alessandro Melli, che è l'inviato del Sole 24 Ore, prego. Ah, buongiorno. Condivido e non condivido, io capisco la reazione tedesca, gli tedeschi sono gli viene richiesto di fare l'impossibile e quindi in una situazione estremamente difficile prendono anche decisioni, hanno atteggiamenti conflittuali. Però non mi sembra una baruffa di polli, mi sembrano problemi veri, serissimi. No, sono problemi serissimi. A me sembrano i polli di Renzo che si beccano fino all'ultimo minuto, perché qua mi sembra che i problemi seri vadano anche oltre l'acquisto di debito italiano. Però faccio anche la stessa domanda, professor Boldrin. Ma la critica più forte che può essere fatta alla Germania è di cambiare posizione ogni settimana più che di avere una posizione. Cioè se un anno fa, a marzo del 2010, la Germania avesse detto, come fece, non salviamo la Grecia, però non lo fai e basta, non è che dici che non la salvi e poi dopo 3 mesi inizi un po' a salvarla e poi ti tocca risalvarla dopo 6 mesi, cioè è la mancanza di una posizione lineare, tutta legata anche lì ai sondaggi politici, o no? Certo, sono d'accordo, però di nuovo, cosa vuole? Io ho visto che la politica europea un po' la seguo per gli aspetti economici con una certa attenzione, se questa sembra della serie di quelli con la trave che criticano la pagliuzza. Lei ha presente quanto ha cambiato di posizione di politica economica l'Italia negli ultimi anni? Per cui bisogna anche renderci conto che in situazioni che sono fondamentalmente situazioni di ridistribuzione, guardi, è banalissimo, ci sono crediti fatti a paesi, fra cui l'Italia, che non sono in grado di restituirli e non hanno intenzione di restituirli, sono stati buttati via dei soldi e qualcuno deve pagare il conto, come dice un mio amico spagnolo, qualcuno si è mangiato il biscottino già e adesso bisogna rimpiazzarlo, e quindi questo ovviamente crea conflitti. Questo non vuol dire che io apprezzi queste oscillazioni tedesche, dico solo che le capisco quando le metto nel quadro di una situazione europea francamente pessima, dove le oscillazioni, insomma, l'Italia è il peggio di tutti, no, non è il peggio di tutti, la Grecia è direi il peggio di tutti in termini di oscillazione. Gli spagnoli un po' si sono raddrizzati, tanto che si permettono persino ora di criticarci, sì. Come l'altro giorno Blanco, insomma. Beh, un po' sì, esagerato, esatto, ho già avuto modo di dire va bene tutto, ma anche la lezione degli spagnoli no grazie, invece no, va bene tutto, adesso manca solo che passi un greco e ci dica anche come risanare il deficit, allora abbiamo fatto, però gli spagnoli hanno fatto la loro parte più di noi, se vogliamo, anche allora hanno fatto la loro parte più di noi, perché Zapatero ha detto che non si ricandiderà, ha annunciato le elezioni, hanno fatto una manovra con l'opposizione e non è poco. Dopodiché andiamo a vedere il mercato immobiliare spagnolo, che è completamente in bolla, le banche spagnole regionali che sono straesposte sugli immobili, le esportazioni spagnole che non ci sono, le imprese spagnole che valgono, senza offesa, ma molto meno delle nostre, per cui insomma, e i risparmi privati. Io su quello, però sul fronte politico niente da dire, e infatti gli spread e i CDS spagnoli sono tutti più bassi di quelli italiani da 2 mesi a questa parte. Alessandro Meli, ti chiedo 2 minuti di pazienza, che ho il meteo e la pubblicità, e poi vorrei sapere anche da te se l'errore della Germania non sia tanto la posizione che tiene, ma è cambiare continuamente posizione. Qui da membro tedesco, cambiare posizione non ne posso più. Meteo. Meno 4,93% la chiusura finale di Milano, con il FTSE MIB che si riporta sulla soglia dei 14.000 punti, meno 4% la Germania, meno 3,60% Parigi, meno 2,5% Londra. Ringraziamo il membro tedesco della Banca Centrale Europea, perché senza le dimissioni ai mercati aperti di Stark avremmo visto un altro scenario. Gli spread, mi dicono dalla regia, sono a 370 punti, quindi siamo tornati sopra il livello e al livello delle peggiori tensioni per la nostra legge finanziaria. Alessandro Merli ha una nota a chi scrive al 349-238-6666. Ogni tanto scherziamo, perché ragazzi, cioè, avete presente che luglio e agosto è stato? Ecco, se ogni tanto non mettiamo un po' di ironia, dobbiamo veramente così compiere l'operazione di sadismo. Alessandro, scrivono alcuni ascoltatori, ma insomma lei presterebbe soldi a un suo amico che è pieno di debiti, è dissoluto, viene a chiedere soldi ogni giorno e poi però non dà nessuna idea di voler veramente ripagare questi soldi? Cioè, se io fossi un tedesco e l'amico è l'italiano, la mia risposta è: beh, non glieli presterei, però se lui mi deve così tanti soldi e ha così tanti debiti contratti, mi conviene tenerlo in vita. Però vorrei sentire anche la tua. Diciamo che è venuto a galla un problema che era il problema dei problemi dell'Unione Monetaria fin dall'inizio. Si è sempre detto che la questione del debito dell'Italia sarebbe stato l'elemento che poteva far saltare l'Unione Europea, oppure un suo rientro poteva in qualche modo tenerla in vita. E diciamo anche che la questione di finanziare il debito italiano probabilmente è il rubicone che in nessun modo i tedeschi vogliono attraversare. E effettivamente, quando si sono trovati davanti a questa ipotesi, prima Weber, cioè l'ex presidente della Bundesbank che era impredicato per diventare il presidente della BCE, e adesso Stark, hanno deciso: questo è troppo. A questo punto forse si potrebbe ragionare se i tedeschi avrebbero dovuto entrare nell'Unione Monetaria ben sapendo che la situazione del debito italiano era quello che era, ma sappiamo anche che certe decisioni sono state prese sulla base di considerazioni più politiche che politiche, economiche. Sì. Allora, dunque, no, non vi dico le battute, non leggo delle cose che voi umani. La rigidità del membro tedesco ha fatto alzare lo spread con il Bund. Vabbè, Bund, ragazzi, non andiamo troppo oggi, non buttiamo troppo in vacca. Invece, professore Boldrin, su questo però facciamo, lei ha tutti i motivi e le ragioni per dire che obiettivamente la Germania non si fida dell'Italia, abbiamo dato delle manifestazioni, delle prove assolutamente non accettabili. Però ripeto, se io ho un amico che è poco affidabile, che non dà grande dimostrazione di essere serio, che mi cambia idea 20 volte su come mi deve ritornare i soldi, ma se io a questo amico ho prestato tantissimi soldi, non solo nell'ultimo mese, cioè è pieno di debiti, mi conviene tenerlo in vita piuttosto che lasciarlo morire, o no? Intanto per cominciare, la confermazione che lei fa spiega appunto perché i tedeschi oscillano fra le due posizioni che lei presenta, quella di cercare di tenerlo in vita, vedere se si comporta bene, e quello di dire no, ne ha fatte già così tante che non è il caso di fidarsi, ed è esattamente i problemi che loro hanno, da un lato vedono un aspetto, dall'altro vedono l'altro. E ripeto, dipende la reazione tedesca di questi giorni. Lei pensa che quello che è successo da agosto ad oggi in Italia, questo balletto indegno dei nostri governanti su questa cosiddetta manovra all'estero, non l'abbiano seguita attentamente? Lei pensa che Stark, gli uffici economici tedeschi non abbiano guardato? Non c'è ragione. Diventa difficile fidarsi di uno Stato, di un paese che si comporta così. Quindi ci sono ovviamente dei conflitti. Sì, ho capito, ma abbiamo messo adesso, non mi faccio difendere il governo. Questo dibattito italiano, prego, in cui le responsabilità nazionali si scaricano sempre sugli altri che non ci fanno i favori, mi sembra francamente una perdita di tempo. La sento poco, professore. Poi i tedeschi, vediamo cosa fanno loro. Ho capito. Cioè, non mi faccia difendere il governo che su questa manovra, l'abbiamo detto, scritto, ha dato dimostrazioni che non avremmo mai voluto vedere. Però, mi scusi, torno sul punto. Adesso la manovra ha avuto la fiducia, andava fatta prima così. Ieri Schäuble, ministro delle finanze tedesco, ha detto è una buona manovra, l'ha detto anche Trichet, cioè non è che un giorno il ministro delle finanze tedesco può dire che è una buona manovra, che l'Italia è nella giusta direzione, e poi il giorno dopo il membro tedesco della BCE si dimette, no? Non è un po' tutto No. Guardi, poi su questo io ho scritto tempo fa, lei come sa, una delle cose di posti per scrivere un blog, si chiama Noise from America, sì, certo, sia io, il riferimento era Mario Draghi. Qui bisogna anche capire la posizione di Mario Draghi, di Stark, di Trichet, di Draghi. All'inizio se ne uscì dicendo subito ma è una buona manovra. Guardi, nelle dichiarazioni pubbliche, quando uno fa quel lavoro in situazioni di questo tipo, deve dire, a meno che la cosa non sia disastrosamente orrenda, deve dire bene, stiamo andando nella direzione giusta, perché fa parte del suo lavoro. Dopodiché privatamente alza il telefono, va alla riunione, prende carta e penna, oggi come oggi prende il computer e la tastiera, e manda una lettera infuocata dicendo ma siete pazzi, ma cosa state facendo? Questo vale ovviamente per quest'ultima manovra. Trichet ovviamente doveva dire insomma va bene, hanno fatto dei passi. Cosa vuole che dica? Sono matti, sono degli irresponsabili, non lo può, perché vengono giù i mercati 10 volte di più. Quindi bisogna anche riuscire a capire che in questo gioco di informazione asimmetrica chi ha delle posizioni di responsabilità è costretto dal suo ruolo a mentire, quelle che gli americani chiamano menzogne bianche, no? A mentire diplomaticamente dicendo ma sì, insomma dai cari vede che vogliono fare le cose, dopodiché sono sicuro che in privato alza il telefono e si incappa come una belva, come faremo io e lei, capisce? Non vedo come altro comportarsi, io stesso mi comporterei così, io sono uno molto poco diplomatico, per quello non faccio quel lavoro. Allora, no, Alessandro Melli, però qui c'è una lettura interessante, poi ti lascio perché e volevo fare anche un commento sull'America con Boldrin. Dice Michele Boldrin: attenzione, perché un conto è la dichiarazione ufficiale di Trichet, di Schäuble, di Draghi, che dicono beh insomma la manovra con la fiducia con l'IVA va nella direzione giusta, e altra cosa può essere il commento che trapela veramente per gli addetti ai lavori. Tu hai avuto questa sensazione ieri alla BCE? Non c'è dubbio che c'è sempre una componente di rassicurazione data verso l'esterno, che non necessariamente è la posizione di quello che uno pensa veramente, nel senso che è chiaro che esprimere continuamente pubblicamente certe perplessità rischia di far precipitare una crisi, anche quando forse non ce n'è bisogno. Invece di mettersi a mercati aperti, chiaramente nel momento in cui uno arriva alle dimissioni si va molto al di là del dissenso sulla questione della manovra. Io credo che la dimissione di Stark siano su un problema molto più fondamentale, che va al di là del balletto italiano di questi giorni, va proprio al cuore della questione monetaria. Cosa deve fare la Banca Centroeuropea? Se i tedeschi accettano che la Banca Centrale Europea monetizzi o meno il debito che sia dell'Italia o di qualcun altro. Le dimissioni di Weber sono arrivate molto prima del balletto di queste settimane del governo italiano, per quanto deprecabile sia stato e per quanto abbia contribuito a farci perdere credibilità. Non lo so, magari l'effetto positivo sarà che qualcuno a Roma, al di là di pensare bene a dimezzare quelle che sono poi i tagli e i costi della politica, lo dico senza nessun populismo, qualcuno a Roma si accorgerà anche che non è che fuori passata la festa, gabbato lo santo, sono tutti contenti di come ci siamo comportati. Ci hanno dato un 6 meno meno, forse, nel finale, perché l'Italia pesa come debito, ma altrimenti ci avrebbero dato qualcos'altro sempre nel finale, perché obiettivamente l'immagine che è arrivata da fuori, di tutto abbiamo sentito. E vedremo se adesso si parlerà di pensioni, e vedremo se adesso arriveranno messaggi di maggiore serietà da parte di chi ci governa, e anche di maggiore disponibilità e propositività da parte dell'opposizione. Questo lo dico come nota interna a noi. È chiaro che il tema in questo momento è l'Italia oltre che la Spagna, è il debito italiano, lo dico a chi scrive. Il tema è, come diceva Merli, il ruolo della Banca Centrale Europea verso i paesi più deboli. Però il più debole dei paesi deboli, e anche il più grosso dei paesi deboli, grosso nella sua debolezza, siamo noi. Grazie Alessandro Merli. Michele Boldrini, resti con noi perché ho il traffico. Volevo un suo commento invece sul piano per il lavoro, 400 miliardi di dollari annunciato ieri in serata da Barack Obama, e poi commentiamo la borsa, meno 4,93%, non c'è molto da commentare. Unicredito è scesa dell'8,22%, il Banco Popolare dell'8,14%, Intesa San Paolo dell'8,1%. Il traffico. Allora, non so se anche gli scandali giudiziari di questi giorni abbiano influito sull'immagine nostra all'estero. Io penso che il ragionamento sia più sulla nostra manovra e su come è uscita incerta, su come è stata modificata 2, 3, 4, 5 volte, sulla parte poco strutturale che c'è, se leggiamo che appunto molto si attende alla lotta all'evasione, sul fatto che non sia una manovra che rilancia l'economia o che libera risorse. Su questo io non so se gli scandali giudiziari che coinvolgono anche il Presidente del Consiglio o membri dell'opposizione abbiano influito su questo. Comunque, professor Boldrin, mi dà un commento sul piano di oggi, la puntata dovevamo farla sull'11 settembre. Comunque, sul piano di Barack Obama di ieri sera, American Jobs Act, 450 miliardi per far ripartire l'occupazione. L'occupazione si fa ripartire con i soldi anche in America? No, guardi, no, perché un po' attesa. Sono un po' attesa, la battuta che gira qui da tempo è con il 9% di disoccupazione Obama perde le elezioni, anche se deve confrontarsi con Ron Paul o la Michelle Bachmann, per cui era chiarissimo, tutti ci aspettavamo che lui se ne uscisse con qualcosa del genere. Quello che propone è un po' nella linea di ciò che la gente si aspettava. Ma guardi, la mia battuta l'ho fatta su Facebook, è la più costosa campagna elettorale della storia. Costa 500 miliardi, ma d'altra parte, visto che la pagheranno i taxpayers americani del futuro... Lei mi sembra molto scettico su questa decisione di Obama, perché dice se Obama si presenta col record di disoccupazione, con la disoccupazione ferma al 9%, perde le elezioni anche contro qualunque candidato, e quindi questi 450 miliardi... Sì, hanno l'obiettivo di far crescere l'occupazione, ma hanno soprattutto l'obiettivo di non perdere le elezioni. Beh sì, nel senso che siccome sono diretti questa volta a costruzioni pubbliche, eccetera, il vero problema dell'economia americana che tiene l'occupazione bassa, o meglio la disoccupazione alta, è il settore edilizio. Se vuole facciamo due numeri, io non voglio annoiare. No, mi dia i numeri. Allora, è banale, il prodotto interno lordo americano è più o meno uguale a quello di prima della crisi, anzi leggermente maggiore a questo punto. Solo che quando lei guarda la composizione di quel prodotto interno lordo, scopre che mancano all'appello 600 miliardi di dollari del settore delle costruzioni. Questo è proprio solo il settore delle costruzioni, quindi senza real estate, finance, immobili, queste cose. Solo il settore della costruzione, che è pari a circa il 3,5% del PIL. Ok? Siccome la produttività del lavoro nelle costruzioni è inferiore infatti alla media del resto dell'economia, ma facciamola pure uguale, questo vuol dire che manca un 3,5% di occupazione. Se lei da quel 9% di disoccupazione attuale toglie un 3%, c'è un 6%, e all'improvviso è successo il miracolo, è tornato il sole, è tutto bello come prima, siamo il paese più bello del mondo. Cosa voglio dire? Voglio dire che quello è il problema, il resto dell'economia americana più o meno funziona. Non ha subito il contraccolpo ovviamente del grande disastro del 2008-2009, ma è più o meno settore per settore ritornata da dove era prima, crescendo lentamente, ma come stava crescendo prima, perché anche prima la grande crescita degli anni, diciamo fra il 2003 e il 2006, era molto tirata da questa bolla edilizia e settori connessi. E quindi quello è il problema. Quindi il problema è quello lì. Tutta la parte che riguarda gli investimenti nel settore immobiliare, nel settore costruzioni, 600 miliardi non è poco che manca all'appello. Ho capito già il suo giudizio sulla manovra di Obama, poi nella seconda ora ascolteremo anche un passaggio in cui Obama ha proposto di dimezzare le tasse per i lavoratori, per le piccole e medie imprese. Interessante almeno questo, no? Sì, quello delle tasse, guardi, che quello che ha proposto è di togliere, di ridurre, di dimezzare i contributi alla sicurezza sociale, cioè le pensioni pagate dall'impresa. In America si paga il 12,6%, metà la pago io, metà lo paga il datore di lavoro, quindi sto togliendo il 3%. Anche questo, ma questa è un'osservazione che si fa anche in Italia, nel senso che tutti gli economisti capiscono, questo non è ovvio che aumenti l'occupazione, se lo aumenta, lo aumenta a un costo mostruoso, perché siccome lei riduce i contributi a tutti, anche a quelli che comunque i lavoratori li avrebbero assunti o li hanno già in carica, lei capisce che sta fondamentalmente riducendo i contributi sociali un po' a tutti, che è una scelta anche legittima, allora, se è una scelta di lungo periodo va benissimo, basta che poi ci dica come intende pagare le pensioni nel futuro. Mi sembra una scelta legittima. Che tutto questo abbia un grande effetto sull'occupazione lo dubito, perché ripeto, è una riduzione del 3%, quindi quello è il margine. Quello è il margine. Professor Boldrin, nel salutarla, visto che lei vive a Washington, lei comprerebbe debito italiano? Comprerebbe obbligazioni? Le ha comprate? Oggi come oggi no. Oggi come oggi devo ammettere che avrei qualche perplessità, ed è proprio recente, guardi, perché io sono un pessimista, sono diventato più pessimista dopo l'ultimo mese e mezzo. Un mese e mezzo fa le avrei detto di sì, adesso francamente non riesco più a capire dove voglia andare il paese, cosa intenda fare, e visto che i conflitti a livello europeo diventano sempre più solidi, la risposta è che forse no. Grazie Michele Boldrin, appunto, che insegna economia all'Università di Washington. Una bella botta anche questa di entusiasmo. Allora, meno 4,93% Milano oggi. Meno 4% Francoforte, meno 3,60% Parigi, meno 2,35% Londra, meno 2,5% l'America. L'euro è veramente sceso a 1,3645. Dico che a me che un ospite del programma sia pessimista, ottimista, interessa poco. Basta che faccia dei ragionamenti seri, documentati, e non alcune cose che abbiamo sentito di nuovo dalla nostra classe politica, che quando parla confonde ancora il deficit col debito. Le borse, dicevamo, meno 4,93%, Unicredito meno 8,22%, Banco Popolare meno 8,14%, Intesa meno 8%, Mediolanum meno 7%, Fiat meno 7% sui due titoli, Monte dei Paschi meno 6%, Ubibanca meno 6%, Exxon meno 6%. Ciao Condina, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a voi. Poi facciamo l'analisi, ma insomma c'è qualcos'altro oltre a Stark che ha inciso sul mercato? Beh, sicuramente anche le parole del numero uno, del neo numero uno del Fondo Monetario Internazionale, la francese Lagarde, che sempre questa mattina aveva dichiarato che ci sono alcune banche europee, senza tuttavia specificare quali, che necessitano di ulteriori aumenti, insomma rafforzamenti del capitale, insomma un'affermazione che già dalla mattinata non era stata certo ben accolta dagli operatori dei mercati. E infatti poi basta vedere, insomma, le performance delle principali banche, non solo quelle italiane ma europee, sono veramente un bollettino di guerra. Sì, e poi è arrivato il membro tedesco e a far calare tutto il resto. Adesso c'è il GR, poi commentiamo, poi cerchiamo anche di capire cosa è cambiato in America in questi 10 anni, ma è difficile fare un ragionamento sui 10 anni quando tutto cambia in 10 minuti. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti. Avremmo dovuto fare una puntata, lo dico a chi si fosse appena messo in collegamento, tutta giocata sul piano per il lavoro di Barack Obama di ieri sera e i 10 anni, anticipandoli leggermente dall'11 settembre del 2001. In realtà, come sempre in questi giorni, ahimè, non si può mai stare tranquilli. Le dimissioni di Stark, di Jürgen Stark, dal consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, era il membro tedesco, verrà sostituito dal vice ministro alle finanze. Dimissioni al di là della facciata, cioè per motivi personali, per uno scontro durissimo dentro la Banca Centrale Europea se continuare a comprare debito italiano e quindi tenere calmierati i rendimenti delle nostre obbligazioni italiane e spagnole oppure no. Evidentemente la frattura è stata così insanabile che si è arrivati alle dimissioni. Già ricordiamo quelle di Weber, candidato a suo tempo alla BCE, e adesso anche di Stark. E quindi cambia la puntata, rimando a lunedì per quello che riguarda l'11 settembre come analisi più profonda. Ciao Condina, dicevamo dei titoli, le banche malissimo oggi, anche perché ci ha pensato la Lagarde questa mattina, dicendo che alcune banche europee sono messe male, non facendo i nomi. C'è qualche altro motivo particolare sui titoli, o se no vado con questa specie di caporetto di borsa anche oggi. Prego, ciao. Ma sinceramente oggi, guarda, andare a vedere i motivi dei titoli diventa forse un po' superfluo. Comunque Banca Popolare di Milano, se possibile, si è mossa in controtendenza rispetto agli altri bancari, ha perso poco più del 3%, si dice, insomma, si vocifera, si continua a vociferare questo possibile ingresso di Matteo Arp nel contesto dell'aumento di capitale. Mediaset perde anch'essa quasi il 5% sui timori di un calo della raccolta pubblicitaria. Ecco, se possiamo trovare un titolo che si è mosso in controtendenza, c'è una spiegazione: l'Ottomatica perde lo 0,37%, in questo caso fanno fede gli ottimi dati registrati ad agosto dall'andamento del Lotto e del Gratta e Vinci. Eh sì, devo dire che anche gli energetici hanno tenuto un po' meglio, un prezzo del petrolio in rialzo, il prezzo della benzina in rialzo e anche del diesel alla pompa, inspiegabilmente, l'abbiamo già chiarito nella prima parte del programma. Enel Green Power meno 1,60, Snam meno 1,90 e appunto c'è poco altro. Bulgari invariata, l'Automatica meno 0,30, anche Terna perde meno del mercato, perde solo il 2,66%, Eni il 3,47%. Vi do la lista degli altri: Unicredit meno 8,22 a 77 centesimi per azione, Banco Popolare meno 8,14, Intesa San Paolo meno 8,1, sotto l'euro per azione 95 centesimi, Mediolanum meno 7,1, Fiat meno 7 sia su Industrial che su Auto, Monte dei Paschi meno 6 come UbiBanca e come Exor, il 5,90 lo perde Fondiaria. Mi fermo con quelli che hanno perso, diciamo, più del 4%, dicevo Exor e Fondiaria meno 5,90, Impregilo meno 5,60, Enel meno 5,50, Generali meno 5,20, Pirelli meno 5 come Mediaset e Telecom Italia, Buzzi Unice meno 4,90, il 4,80 lo perde A2A, il 4,60 ST Microelectronics, il 4,40 Prismian, il 4,17% Luxottica, il 4,15 è il calo di Atlantia. Grazie, ciao Condine, buon fine settimana a te e a tutti i colleghi di Radio Cori, il sole 24 ore. Grazie a alle 9 nel quarto, ora di New York, una violentissima esplosione ha squarciato almeno 6 piani del World Trade Center, i 2 grattacieli gemelli nel downtown New York, dove già alcuni anni fa il terrorismo islamico fece esplodere una bomba. L'esplosione è stata violentissima, si vedono già 6 o 7 piani interamente squarciati e nuvole di fumo che stanno uscendo dal grattacielo. Mezzi di soccorso e polizia stanno circondando in questo momento tutta quanta la zona intorno al World Trade Center, il distretto finanziario. Io mi trovo qui vicino a una macchina della polizia quando è arrivata la notizia dalla radio. C'è stata una fortissima esplosione al Pentagono, vicino alla piattaforma di arrivo degli elicotteri. C'è un palazzo lì, un edificio che è stato, dopo una fortissima esplosione, è stato immediatamente evacuato. Ma la cosa peggiore è che è stata evacuata anche la Casa Bianca. La Casa Bianca, secondo i servizi di sicurezza, potrebbe essere l'altro obiettivo. Il Presidente Bush in questo momento non si trova a Washington, ma in Florida, per cui non è nella Casa Bianca, ma la Casa Bianca è in questo momento evacuata dalle forze di polizia. E allora, forse alcuni di voi l'hanno riconosciuto, era Alessandro Praterotti, al tempo corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Per caso si trovava alle 8:46 vicino alle Torri Gemelle, e fu, lo dico senza nessun tipo di così autocelebrazione, non c'è niente da celebrare, ma fu Radio 24 la prima a dare in assoluto la notizia, per via di questa coincidenza, ma insomma, la notizia che un aereo alle 8.46 si era schiantato contro la torre nord del World Trade Center. Alessandro Paterotti, buonasera. Buonasera a voi. La vita è cambiata, 10 anni, tu adesso fai vice direttore del Sole 24 Ore e volevamo averti per parlare dell'America 10 anni dopo con Barack Obama. In realtà oggi parliamo di altro, però una chiosa, prima di arrivare a Stark, alla BCE, alla Germania, cosa vuole fare dell'euro, vorrei darla. Uniamo simbolicamente quel giorno, quello che capitò sui mercati, anche al discorso di Barack Obama ieri. La domanda è molto semplice: ha fatto a distanza di 10 anni più danni, non lasciamo stare i danni alle persone, ci mancherebbe, ma più danni l'11 settembre o ha fatto più danni, diciamo, Wall Street nel frattempo? Penso che siano, non sono paragonabili, possiamo dire soltanto questo, che sono due processi di globalizzazione. In questo senso lo dico, perché lo dico? Perché il terrorismo era un fenomeno che gli Stati Uniti non conoscevano, era un fenomeno tipicamente europeo ed era un fenomeno tipicamente medio orientale. L'attacco alle due torri porta il terrorismo internazionale nel cuore degli Stati Uniti. Qual è il risultato? Che dopo l'11 settembre non c'è mai più stato un attentato negli Stati Uniti. E il terrorismo si è globalizzato in questo senso con la guerra al terrorismo. L'Iraq, l'Afghanistan, le grandi tensioni internazionali, quello che ha passato anche l'India, la Thailandia. Abbiamo visto spostarsi la guerra al terrorismo su fronti che prima non conoscevamo. Abbiamo subito due guerre vere. Una è ancora di fatto, l'Afghanistan è ancora in corso. Wall Street ha subito il contraccolpo dell'11 settembre, ma si è e dopo l'11 settembre è avviato un fenomeno che devo dire veramente dal 2000, in questo senso dal 2001, che è stata la correlazione dei mercati. Cioè dopo l'11 settembre tutti i mercati azionari hanno avviato una correlazione che, guardavo oggi, siamo arrivati a circa l'80%, cioè si muovono tutti i mercati assieme in linea. Ed è una cosa che è avvenuta dopo l'11 settembre. Una volta la correlazione era meno forte, tu dici l'80% delle volte. Quindi vi do una chiave di lettura nuova in questo senso, che è questa correlazione e nell'aspetto del terrorismo e nei mercati finanziari. E poi va anche detto che dal 2001 in poi, se non ricordo male, si implementa quella finanza derivata, io ho chiamato anche deviata, ma insomma in molti casi derivata, è molto speculativa, molto priva del senso del rischio, grazie anche a alcune decisioni di legge, ma insomma la distrazione dell'America fa sì che Wall Street continui imperterrita, anche peggiorando quello che è l'assunzione di rischi impropri. Ma diciamo questo, che in realtà il processo era cominciato ben prima del 2001 ed era cominciato in particolare nel 1997. Nel 1997 ci fu una riforma importantissima per gli Stati Uniti, che era la riforma del cosiddetto Glass-Steagall Act. Il Glass-Steagall Act era la legge che proibiva la compenetrazione fra attività di investment banking e attività di retail. Cade il Glass-Steagall Act, si riforma, e le banche di investimento cominciano a fare le banche commerciali e viceversa. Cominciano i due mondi ad incrociarsi, non nascono, ma esplode il mercato dei titoli derivati, il mercato delle cartolarizzazioni, il mercato dei derivati sintetici, il mercato, tutti quei possibili prodotti finanziari che dovevano servire, o almeno l'intenzione per cui erano nati, era quello di redistribuire il concetto di rischio nella più vasta platea di soggetti in modo da ridurlo. In realtà abbiamo scoperto che distribuire il rischio significava solo amplificarne la portata dell'impatto negativo il momento che ci fosse stata una crisi, e questo è quello l'errore che c'è stato. Portata su base sistemica, perché poi fa tremare tutto. Era un'architettura che è stata impostata, che doveva servire per creare una rete di sicurezza sui mercati, in realtà è diventata proprio la vulnerabilità, era proprio questa diffusione del rischio. Eh sì, la rete di sicurezza si è tramutata invece nel tallone d'Achille dei mercati stessi. Fa bene ricordare che comunque la vera deregolamentazione, cioè permettere alle banche che raccolgono dai privati, dai cittadini, di usare questi soldi per investire in operazioni altamente finanziarie, altamente a rischio, cioè la differenza tra banca di investimenti e banca retail che raccoglie, viene elevata nel 96 con l'idea che tanto sarebbero stati strumenti usati da pochissimi. Una storia che abbiamo già raccontato. Adesso però c'è il traffico. Poi vorrei, ripeto, lunedì avremo un approfondimento più ampio sull'11 settembre, anche come analisi dell'America. Vorrei però tornare a palla su quello che è successo oggi a partire dalle 15.40 in poi, quando si è dimesso

Ecco un attimo solo, siamo considerati più credibili la Spagna, ora siamo considerati sempre di più meno credibili. E poi ha aggiunto: il governo o è in grado di governare o ne tragga le conseguenze, che a casa mia, non c'è bisogno di tradurlo, significa andiamo a elezioni. Due domande. La prima, secondo te ci si avvicina, o questi passaggi potrebbero portare a un governo tecnico in Italia o... sarà... Innanzitutto vediamo come finisce l'approvazione della manovra, intanto questa deve essere approvata. Certamente se vedremo nuovamente il teatrino intorno alle misure, che nuove divisioni, nuove spaccature, intanto i titoli di Stato nostri vengono bersagliati, le borse cadono, credo che ognuno dovrà prendere, fare veramente considerare qual è il proprio ruolo, che cosa ha fatto e che cosa deve fare finalmente, perché io penso che uno dei principi italiani che qui bisognerebbe riaffermare è il senso delle istituzioni. Qui non c'è, qui si sta continuando, mi sembra, molto più a pensare alle corporazioni che alle istituzioni, e questo è il percorso. Qualcuno se lo ricorda, Paniz, che ci porta sul barco in questo programma, che ha detto: noi non voteremo la finanziaria se non levano la norma sugli ordini degli avvocati. Cioè questo è il senso delle istituzioni. A luglio, mentre eravamo bersagliati con lo spread che andava a 370, tanto adesso c'è di nuovo a 370, la differenza tra quanto rende l'obbligazione tedesca e quanto rende l'obbligazione italiana. Seconda domanda, Alessandro, e riguarda invece la Germania. E cioè, uno può fare quello che vuole nella vita, può decidere di non aiutare l'euro, di non aiutare la fascia debole, la parte mediterranea, e oppure di decidere che è meglio tenere in piedi l'euro, perché anche la Germania è molto esposta come banche verso la Grecia, verso l'Italia, verso il Portogallo, e comunque sarebbe peggio la versione 2. Non trovi che l'errore della Germania sia stato cambiare posizione troppo frequentemente? Cioè aiutiamo la Grecia, non aiutiamo la Grecia, aiutiamo l'Italia, non aiutiamo l'Italia, prego. Ma io non, sinceramente no, non credo affatto che la Germania abbia cambiato posizione. La Germania è sempre stata della posizione di dire: siamo chiamati noi a pagare il conto del vostro pranzo. Questa è stata sempre la posizione tedesca. Vuoi per un senso di responsabilità europea, vuoi per altre considerazioni anche storiche sul ruolo della Germania, sul ruolo leader della Germania, che loro hanno sempre cercato un po' di soffocare dopo la Seconda Guerra Mondiale. Beh, insomma, loro hanno accettato di pagarci il pranzo, diciamolo chiaramente. A questo punto hanno detto no. Allora, io credo che sia un'evoluzione naturale del comportamento tedesco ciò che ha fatto la Grecia, ciò che ha fatto l'Italia. La Spagna è in misura minore, del Portogallo si parla meno, cioè noi dobbiamo considerare questo. E ai tedeschi, all'elettorato tedesco, alle istituzioni tedesche, alla finanza tedesca stiamo chiedendo di salvare la tenuta del nostro sistema finanziario nazionale, come quello della Grecia, senza fare nulla per risolvere i nostri problemi. È inevitabile, io mi domando quale cittadino italiano in un condominio andrebbe a riparare i tubi dell'acqua del piano dell'inquilino del piano di sotto senza nessun motivo, se non altro quello di dire che il palazzo stia messo bene. Cioè io dico sempre, l'Europa, l'euro è come un condominio, o ci sono delle regole che valgono per tutti, altrimenti uno si mette le tende fuori rosse, l'altro giallo, l'altro spende e spande e poi non paga le rate condominiali. Questo è quello che sta succedendo. Allora, sì, qualcuno qua continua a scrivere che nel fine settimana, questa è la prova tecnica perché di un fine settimana in cui faranno saltare la Grecia. Io ma non è possibile, lo so. Ma io dico allora, oggi l'adesione, c'era la scadenza delle adesioni delle banche al progetto di salvataggio, domani c'è il discorso di Papandreou alla Nazione sui tagli, il Fondo Monetario vuole una linea più morbida nei confronti della Grecia, la BCE e la Germania non la vogliono più dura. La Grecia non ha raggiunto un solo obiettivo di quelli che si era posta quando ha avuto la prima tranche di aiuti. Adesso dobbiamo dargli la seconda. Soltanto su che cosa? Nemmeno più sulla parola, perché non sono in grado di rispettare nessun impegno. Sì, faccio anche notare che, visto la solidarietà che si chiede ai tedeschi, in questo paese c'è chi non è disponibile da nord a pagare verso il sud. Ecco, immaginate in me. Allora. Grazie Alessandro Platerotti, vice direttore del Sole 24 Ore, grazie come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, e per l'ultima volta anche a Gaia Romani, perché si sposa e se ne va, almeno una buona notizia l'abbiamo data oggi, ed era abbastanza, sì, con grande sconforto di Platerotti, ma si sposa e non con te. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Vi lascio adesso alla nostra programmazione, pensate ad altro, il weekend dovrebbe essere buono come meteo, ce lo auguriamo, noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.